Allora, siamo qui in compagnia di un ragazzo, uno studente del Benedetto da Norcia, e liceo dove qualche settimana fa si sono verificati una serie di, come dire, eventi spiacevoli, di cui abbiamo avuto modo di leggere anche sui giornali e sui media, e poi sono state, insomma, prese di posizione dopo questi episodi, assemblee in piazza, tutta una serie di cose che ci racconterà però lui in prima persona. Allora, intanto, benvenuto a Radio Onda Rossa, che è successo appunto qualche settimana fa di fronte a scuola vostra, no? Sì, mi fa piacere essere qui a raccontare quello che è successo, anche perché, diciamo, di fatti del genere non ce ne devono essere più. E il fatto in questione è accaduto l'11 maggio, dove appunto di fronte a scuola nostra, la mattina, prima dell'entrata scolastica, si sono affacciati, diciamo, gli esponenti di blocco studentesco. Che poi sarebbe la giovanile di Casa Pound in un numero cospicuo e soprattutto molto più grandi di noi. E inizialmente stavano in centrale, poiché le nostre sedi stanno praticamente sulla stessa via. E prima, diciamo, si sono attaccati con un nostro compagno che fa anche lui parte del collettivo studentesco del Da Norcia, e per fortuna però non è successo nulla di poi così grave. E poi si sono spostati in succursale, dove lì un nostro compagno gli ha chiesto le motivazioni di un loro manifesto che hanno attaccato la mattina, dove c'era scritto "Famo come ce pare", e quindi già da qui possiamo capire pure la loro impronta politica e il messaggio che vogliono trasmettere. E dopo detto questo, comunque gli esponenti di blocco studentesco l'hanno attaccato, e dove appunto è rimasta coinvolta pure la nostra amica nel tentativo di dividerli. E dopo questo accaduto, cioè, non è successo più nulla. Però se devo, diciamo, fare una sequenza cronologica dall'inizio dell'anno scolastico, ci sono stati ripetute affissioni dei loro manifesti, che noi puntualmente staccavamo, poiché appunto non ci ritroviamo nella loro idea. E fino a che un mese prima, diciamo, dell'11 maggio, si erano sempre presentati prima di un nostro corteo, proprio per cercare di interferire in qualche modo. Però lì non era successo nulla di grave. E il corteo poi il giorno dopo si è svolto bene, era il 24 marzo, se non sbaglio, e appunto dove noi de denunciavamo l'alternanza scuola-lavoro, che è comunque un decreto che a noi studenti sta, cioè non vogliamo che continui. E dopo questo fatto, ci sono state pure mobilitazioni da parte di tutti i compagni, sia di Roma Est che di Roma in generale, e anche di messaggi di solidarietà, eccetera. E abbiamo avuto la possibilità anche di fare un evento in piazza di fronte a scuola nostra, che si trova nel quadrante di Centocelle a Largo Aosta, dove abbiamo invitato molte realtà del territorio e anche le scuole che ci teniamo in contatto. E lì in quell'assemblea è stata dedicata soprattutto non tanto all'evento in sé, che poi non dobbiamo guardarlo in assoluto, ma dovremmo, diciamo, guardarlo in relazione poi a tutti gli altri attentati, mi viene da dire, però. Vabbè, Sì, perché. il concetto è quello, diciamo, un po'. Sì, è esagerato, infatti. Diciamo, a tutti gli altri aggressioni Però, che ci sì, sì. sì. che ci sono state. E lì è comunque è uscito fuori che ovviamente queste organizzazioni vengono fuori soprattutto quando non c'è una controparte che fa un buon lavoro sul territorio, che comunque non si fa sentire, o che non diciamo, prende la voglia del del quartiere, insomma. E dopodiché io volevo aggiungere giusto un'altra cosa che è successa poco fa, non so, cioè poco fa, circa 2 o 3 giorni fa, di un'altra aggressione sempre a stampo fascista a un compagno che si trova nella zona dell'Appio Latino. E quindi sicuramente questi eventi non sono isolati, non dobbiamo comunque sempre guardarli in modo lontano, ma avvengono tutti i giorni quando meno ce l'aspettiamo, perché sappiamo comunque come loro agiscano. E anche quello che è successo di fronte a scuola nostra, seppur non ci sono stati feriti, però è stata una presa di posizione da parte loro, diciamo, abbastanza elevata, perché comunque siamo presentati in tanti, quindi sicuramente c'è bisogno di farci vedere di più nei quartieri e nei territori, per non ricadere comunque in queste organizzazioni che piano piano stanno prendendo piede. Senti, ma quindi insomma, vabbè, noi ti abbiamo chiamato perché abbiamo visto quello che era successo, quanto è stato 2 settimane fa Sì, circa, no? sì, sì. Perché è andato sul giornale, insomma, una cosa di cui si è parlato un minimo. E però, da quello che ci dici, insomma, c'è una situazione che va avanti ormai da qualche tempo, insomma, dall'inizio dell'anno scolastico, non soltanto a scuola vostra, voi siete a Via Teano, perché Via Nagni. E quindi forse quella è stata un po' come dire, la punta di un iceberg, però c'è pure qualcos'altro sotto o no? Cioè, di cui magari chi non va a scuola no, non si rende conto, però in effetti è così. Beh, effettivamente sì, anche perché ovviamente questo ci ha riguardato direttamente, però nel quartiere, cioè nelle scuole di Roma, la presenza di militanti fascisti c'è ed è pure cospicua, e lo si nota pure nella Consulta, che sarebbe un organo dove vengono rappresentate appunto le singole scuole di Roma, e lì comunque il blocco studentesco sta unito anche a Forza Nuova, se non sbaglio, si è a momenti, diciamo, poteva passare come presidente della con presidenza della Consulta. Quindi sicuramente c'è un ingente numero di organizzazioni fasciste che si trovano nelle scuole, anche perché sicuramente a me viene da dire che il messaggio che lasciano loro è sicuramente più facile. Quindi è ovvio che anche i ragazzi più piccoli, o comunque i ragazzi che leggono di meno, o comunque che sono più superficiali, mi viene da dire, sono più presi dalle loro ideologie, che sono appunto più facili, più basiche. Non c'è lavoro, me la prendo con l'immigrato. Mentre ci dovrebbe essere più una coscienza collettiva che anche noi cerchiamo di portare, insomma, come collettivo a scuola nostra, nelle nostre assemblee. L'ultima abbiamo fatto anche un'occupazione proprio per cercare in qualche modo di sensibilizzare maggiormente i ragazzi, sia a livello culturale e sociale, ma anche appunto per quanto riguardava, perché la nostra protesta era soprattutto fatta per l'alternanza scuola-lavoro. Quindi, per ritornare al discorso di prima, bisognerebbe appunto avere una maggiore cultura, che dovrebbe sicuramente arrivare anche dalla scuola e dai professori, che molte volte, diciamo, tralasciano questo aspetto. Senti, a proposito di scuola, professore, insomma, anche compagni vostri, studenti, com'è stata presa questa storia, insomma, perché, diciamo, in qualche modo c'è stata una presa in carico generale, come a volte succede, oppure come invece altre volte succede, è stata messa un po' sotto il tappeto, dicendo, beh, in fondo non è successo molto, in fondo sono quattro gatti quegli altri, ecco come ha reagito un po' tutta quanta la scuola nel suo complesso. E noi il giorno stesso dell'accaduto abbiamo fatto un'assemblea straordinaria dove chiarivamo cosa era successo e i loro meccanismi. Quindi la scuola, ma già dalle prime ore, quindi appena entrati, visto che È successo tutto nell'arco di 10-15 minuti prima dell'entrata scolastica. Ovviamente già i ragazzi, anche perché noi, facendo parte di scuola, comunque ci conoscono tutti, quindi di conseguenza vedere dei ragazzi, amici o conoscenti, che vengono aggrediti o in qualche modo importunati fuori da scuola da persone esterne, più grandi, ovviamente fa un certo effetto, e quindi pure la scuola ha risposto in maniera positiva, e anche lei comunque ha denunciato il fatto che nessuno può nemmeno più entrare a scuola perché ci stanno questi tizi. Poi ovviamente alcuni nemmeno sapevano chi fossero, di quale organizzazione, di quale lato politico. Anzi, anche un giornale, Il Fatto, ha scritto appunto riguardo questa cosa come una lite fra ragazzi fuori scuola, come se cioè tralasciando tutto quello che poi era veramente la questione. Una rissa fra Una, balordi. sì, una rissa, sì, praticamente era quello. E quindi no, per fortuna sì, ma se ne parla ancora, cioè ancora oggi, e i ragazzi sicuramente stanno dalla nostra parte, seppur anche apolitici, se si può dire così, ormai è un termine in voga perché tutti dicono che la politica non fa per loro, purtroppo. A questo proposito, diciamo, come funziona la politica, insomma, quanto l'impegno in una scuola come la vostra, e peraltro è pure un liceo, quindi insomma, è il non plus ultra della piramide scolastica italiana. Ecco, noi ti abbiamo chiamato perché tu e gli altri fate parte di un collettivo, ecco, però dentro proprio la vostra scuola, senza che generalizziamo, ecco, come funziona, come vengono recepite, come viene recepito quello che fate. C'è un gran problema su questo perché molti ragazzi sono proprio disinteressati. Noi lavoriamo appunto sulle assemblee, su degli eventi che organizziamo, e più delle volte non sono molto presi. Noi, vabbè, portiamo tematiche, cerchiamo di portare tematiche anche più non pesanti, insomma, perché capisco che se un ragazzo non conosce una questione, comunque portargliela in un modo troppo scolastico, perché dobbiamo evitare anche questo, già i ragazzi non gli va di studiare, quindi figuriamoci se gli va di seguire un'assemblea, ad esempio, quando poi potrebbero stare a casa. Però ovviamente non ci segue tutta scuola, e questo, cioè, certamente fa un po', ci fa dispiacere, però comunque le ultime assemblee non sono andate malissimo, anzi. Siamo sempre sui 200-250 persone che, essendo comunque un'assemblea che senza obbligo di frequenza, comunque noi ci riteniamo abbastanza soddisfatti, anche perché poi scuola nostra nemmeno ha a disposizione un'aula magna per contenere tutti, quindi da una parte è pure meglio che non vengano tutti, insomma. L'ultima assemblea che abbiamo fatto l'abbiamo svolta su un progetto che ci avvicino, in quanto anch'io faccio parte di quel progetto dell'SD Villa Gordiani, un progetto territoriale dove appunto cerchiamo di far rivivere un campo da calcio, una società che ormai si era disgregata, e ci stiamo lavorando da un sacco di tempo proprio per riottenere quel campo dentro al parco di Villa Gordiani, che era in disuso. Con mille Con difficoltà. mille difficoltà, purtroppo, perché vabbè, la gestione, diciamo, 5 Stelle non ci ha mai aiutato. Particolarmente ben Non è formata. così, esatto. E quindi anche lì, però, c'è stata. Perché poi da lì si possono far emergere anche molte tematiche importanti, come la socialità, la questione comunque economica, che vede sempre di più spazi che comunque hanno un costo, e chi non se li può permettere, comunque. No, non può farlo, ed è piaciuta particolarmente, e quindi io sono molto felice di questo. Ora vabbè, possiamo anche dire che scuola è finita, quindi adesso manca poco, quindi per adesso ci stiamo rilassando anche noi, dopo l'ultimo appunto dopo l'ultima assemblea che abbiamo fatto. Senti, prima di chiudere, però ti vorrei ancora rompere le scatole su una cosa che, diciamo, ci incuriosiva. A inizio anno scolastico, oh, c'è stato un enorme cancan mediatico, te lo ricorderai anche tu, sul Virgilio, no? E su tutto quello che era successo al Virgilio, i festini, il sesso, la droga, insomma, tutto quanto. E è stata una notizia, diciamo, a livello nazionale. Certo, mi ho passato un paio di settimane in cui c'era la preside che parlava tutti i giorni, dibattiti, eccetera, eccetera. Ecco, mi chiedevo come l'avete presa voi, se insomma ne avete parlato fra di voi all'epoca, visto che stiamo già parlando di diversi mesi fa, e considerando che quello, diciamo, è uno dei licei del centro, voi siete già un licei della prima periferia, perché poi ce ne sono ancora altri molto, molto più lontani. E poi a seguire ti volevo chiedere se ci sono comunque delle forme, non ti dico di coordinamento, ma di relazione fra i collettivi delle varie scuole a Roma, anche diciamo al di là di quelle che stanno proprio attaccate l'una con l'altra, oppure se poi alla fine ognuno va un po' per conto proprio. Allora, per quanto riguarda quello che è successo al Virgilio, sicuramente c'è stato un caso mediatico più grande del reale accaduto, secondo me, perché io alcuni ragazzi li conosco del Virgilio e sicuramente me lo sono fatto pure raccontare. E non è andata così, ad esempio pure il video porno, per dire. No, perché c'è stato veramente il caso mediatico e quello posso assicurare che non è stato così, anzi. E per quanto riguarda festini e cose varie, insomma, sicuramente era un modo per i ragazzi di autofinanziarsi, anche perché loro, oppure con le altre scuole del centro, fanno un bel lavoro e quindi ovviamente, secondo me, anche nella loro occupazione hanno denunciato un decreto importante che va avanti da tanto tempo. E noi ci stiamo in contatto, anche se purtroppo proprio per praticità è difficile incontrarci spesso, perché con i mille impegni che abbiamo, tra diciamo, banale, tra virgolette, studio comunque che ci porta via del tempo, ognuno ha una propria vita e una propria scuola, diciamo, da gestire, sempre tra virgolette. Quindi c'è difficile incontrarci, però soprattutto nei momenti più caldi, che sono, vabbè, i primi mesi ci sentiamo, ci vediamo e lavoriamo anche insieme spesso. E poi soprattutto dopo l'ondata delle occupazioni che ci sono state, lì ci siamo messi in contatto, e che poi il Virgilio, se non sbaglio, è stata proprio la prima scuola di Roma a occupare, e sicuramente lì anche noi, seppur di periferia, avevamo comunque un po' il timore di essere adocchiati dalla stampa, diciamo. Però noi non ci sono affilati sostanzialmente, beh, perché il Virgilio c'ha un nome, noi non siamo nessuno. Però sicuramente rimango solidale con loro perché svolgono un bel lavoro. Ultimamente purtroppo, ecco, non ci siamo sentiti molto, e questa è sicuramente una cosa che dovremmo migliorare per avere un coordinamento unito di scuole, di collettivi soprattutto. Ti faccio questa domanda perché fa insomma un po' impressione che ci sta, che se stai a Via Giulia, diciamo, fai la festa del sabato sera e 15 giorni a porta a porta. Cioè, se stai a Via Nagni e ti vengono a menare in 20 davanti scuola e c'hai 5 righe sul Messaggero in cronaca romana, non so pensare se stai alla Maldi, cioè, tirano una bomba per sperare in un minimo di attenzione. Comunque, insomma, questo è quanto. Io ti ringrazio moltissimo. Oltre, beh, se qualsiasi altra cosa tu vuoi aggiungere, è tutto a tua disposizione. E prima di lasciarci, però, siamo giunti alla fine dell'anno in ogni caso, e ci dicevi, c'è stata questa vicenda, comunque una risposta c'è stata da parte della scuola, c'è stata anche questa bella assemblea in piazza lì di fronte. I buoni propositi, se non per l'estate, diciamo per l'inizio del prossimo anno, quali saranno? Beh, sicuramente noi ogni anno lavoriamo sempre in maniera abbastanza positiva, quindi i buoni propositi sono quelli che sicuramente senza usare la violenza ci mettiamo in conto il fatto che sicuramente potrebbero ritornare, ma lì dobbiamo essere bravi noi a rispondere in modo intellettuale, nel senso che creare già dopo questo fatto sicuramente loro non hanno, non godono di una buona popolarità a scuola, quindi dobbiamo puntare su quello, creare una coscienza più determinata in tutta la scuola in generale e questo insomma. E seguiranno ovviamente vari cortei che, come l'ultimo che abbiamo organizzato nel nostro quartiere, poiché tutti i cortei studenteschi partono come sempre da Piramide e finiscono al Ministero. E noi volevamo anche cambiare questa rotta e spostare, diciamo, l'asse di popolarità, tra virgolette, Un po' anche più se verso un est. po' più verso est, mettiamola così. E quindi sicuramente potremmo lavorare anche su questo, che ha visto pure un sacco di persone della nostra scuola e mi ha fatto molto piacere, insomma. Va benissimo, allora, grazie mille. Hai passato i provini per il calcio in tutto ciò, sì? No, ancora no. Va Ancora siamo in allenamento. bene, ok.